America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. As I emphasized, even as we will continue on the diplomatic front, I reserve all options. And my policy here is not going to be one of containment. My policy is prevention of Iran obtaining nuclear weapons. Barack Obama, incontro chiave con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Avete sentito il presidente americano che dice che c'è una finestra diplomatica aperta nei confronti di Teheran, ma che tocca all'Iran raccogliere la mano che gli viene tesa dal punto di vista dei negoziati e in qualche modo anche far sì che vengano eliminate le sanzioni che stanno danneggiando il paese dal punto di vista economico. Il presidente ha detto questo passo in avanti ancora non lo abbiamo visto e dunque tutte le opzioni sono sul tavolo. Si è fatto un passo in avanti ieri a Washington fra Israele e Stati Uniti. Prima c'era parecchia tensione, a questo punto i due leader sembrano capirsi. Netanyahu capisce che Barack Obama ha un anno elettorale davanti a sé e che comunque la sua politica è una politica non dell'improvvisazione, ma è la politica di dare ogni chance per una via d'uscita, di modo che se poi si dovrà ricorrere a un attacco militare, tutte le opzioni saranno a quel punto state esplorate. Riprendo invece il tema di cui vi ho parlato ieri. Oggi è Super Tuesday, oggi in America si vota in 9 stati contemporaneamente, c'è un decimo stato in cui si vota, però i delegati saranno assegnati solo più tardi. La canzone che avete sentito è di Bruce Springsteen, Oklahoma. Vi avevo anticipato che oggi avremmo parlato del Sud. L'Oklahoma è uno dei grandi stati del Sud. Il suo nome deriva dall'indiano Choctaw, Oklahoma, che significa pelle rossa. L'Oklahoma è uno stato popolato in gran parte da cristiani evangelici e dunque l'idea è che questo stato possa essere più favorevole a Rick Santorum piuttosto che a Romney. Ma gli sviluppi degli ultimi giorni, e cioè una serie di leader conservatori repubblicani che hanno aperto a Mitt Romney a partire da Eric Cantor, tra l'altro scusatemi perché ieri in un lapsus ho detto che Eric Cantor appoggiava Santorum, per carità, no, Eric Cantor ha dichiarato ieri, del resto l'avevo messo su Twitter più volte, che appoggiava Mitt Romney. Non è stato soltanto lui, ci sono stati anche altri importanti politici americani. E la destra repubblicana resta divisa, perché anche Gingrich potrebbe far bene in Oklahoma, che non è lontano dalla Georgia, però i due candidati della destra si elidono a vicenda. Help me information, get in touch with my Marie. She's the only one who would phone me here from Memphis, Tennessee. Her home is on the south side, high up on a ridge, just a half a mile from the Mississippi Bridge. Il Tennessee, ci sono 58 delegati in palio, di nuovo uno stato che potrebbe andare a Gingrich o a Santorum, anche se Romney, vi dicevo, sta organizzando un forte comeback. La canzone che avete ascoltato, Elvis Presley, Memphis, Tennessee, e c'è da dire che anche tristemente famoso perché il Ku Klux Klan si è formato proprio in Tennessee, a Pulaski, nel 1866, e soprattutto perché a Memphis ci fu nel 68 l'assassinio di Martin Luther King, uno stato con l'82% di popolazione bianca e il 16% di popolazione nera, molti cristiani evangelici. Di nuovo uno stato del sud forse più vicino a Santorum e a Gingrich che non a Mitt Romney. Di John Phillips. Beh, la Virginia è uno degli stati storici, una delle 13 colonie che hanno lottato per l'indipendenza dall'Inghilterra, la capitale Richmond, e solo il 64% della popolazione bianca, il 20% afroamericana. Santorum ha la sua chiesa in Virginia, ne ho parlato ieri, una chiesa molto conservatrice che fa addirittura le messe in latino. La Virginia è famosa per le grandi produzioni di tabacco, e però nel 2008 la Virginia, che è uno stato molto conservatore, ha votato per Barack Obama. pensate, dopo che in 10 elezioni presidenziali precedenti aveva sempre votato per un candidato repubblicano. Potrebbe essere uno swing state, non credo che lo sarà quest'anno. Barack Obama potrebbe avere difficoltà in Virginia e la Virginia potrebbe scegliere però Mitt Romney invece di Santorum o di Gingrich. Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Georgia, Atlanta, beh, insomma, Georgia e la Georgia è il grandissimo stato del sud. Atlanta è la grande città del sud. Ad Atlanta c'è la CNN, è nata e cresciuta la CNN. Ad Atlanta c'è la Coca-Cola, uno dei grandi simboli americani. La Georgia, tutti si aspettano, finirà per votare per Newt Gingrich e della Georgia, ma sia Santorum che Mitt Romney gli daranno sicuramente molto filo da torcere. Vi ho parlato di Coca-Cola, ma anche Home Depot, anche la UPS e soprattutto la Delta Airlines hanno sede ad Atlanta. Come finirà questo Super Tuesday? Ma la mia impressione è che alla fine Mitt Romney difenderà le posizioni, ha vinto 4 stati di fila e uscirà a testa alta da questo confronto multiplo, non fosse altro per la forte organizzazione di cui dispone. Non credo che sarà risolutivo, soprattutto Santorum probabilmente continuerà. Non escludo che Gingrich, se dovesse far bene soltanto in Georgia, alla fine decida di uscire a testa alta. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno, parlando di America, di storia americana, di Super Tuesday, di questi stati così diversi eppure parte di uno stesso universo americano. Oggi non posso che farvi ascoltare una delle canzoni più popolari degli Stati Uniti, nella sua versione originale, lunghissima, una canzone che adoro e che vi confesso in momenti di debolezza finisco per cantare anch'io. Don McLean, American Pie. Well, I know that you're in love with him, 'cause I saw you dancing in the gym. You both kicked off your shoes. Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye and singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.